La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Cara Barbara, per molti aspetti la mia vita è simile alla sua. Lei è confinata al faro. Io passo gran parte della mia vita chiuso in locomotiva, essendo un macchinista delle ferrovie, da dove osservo solitario albi e tramonti, pioggia e sole su questa nostra Italia. Quando guido il treno, io torno tra i miei eroi di bambino e mi sento una specie di Capitano Nemo. Io da piccolo volevo fare l'astronauta. Adesso i bambini non sognano più di diventare eroi. Vogliono fare gli avvocati, i calciatori, le veline oppure i boss che controllano le città. Ma il pessimismo è un lusso che non possiamo concederci per i nostri figli. E per il rispetto di chi è vissuto e a volte morto per darci un mondo migliore, vorrei segnalare un episodio che mi ha molto colpito. Quando ci fu l'alluvione di Genova, un vigile del fuoco, sopraffatto dalla fatica e dalla tensione emotiva durante quei duri momenti, è stato colto da infarto. Brevissimo cenno nei giornali, che invece non si erano risparmiati l'apprensione e l'angoscia per il ricovero di un noto calciatore del Milan. Per confortare i tifosi ci hanno addirittura propinato il responso del medico ufficiale della squadra. Io ho avuto l'impressione di assistere alla visita veterinaria di un cavallo puro sangue, il cui padrone spera di non perdere il suo lucroso investimento. E io penso agli eroi anonimi, a quelli che senza mantello e senza clamore fanno il loro dovere. Non avranno allori, ma resteranno sempre giovani, mentre gli altri sono già vecchi e già imbruttiti, già morti. Adesso non piove più. La macchina ha smesso di lamentarsi per gli slittamenti continui, è uscito il sole. Apro il finestrino. Entra aria fresca. Alessandro M. Beh, senti Alessandro M, che bella lettera e che gioia riceverla per una che come me ha passato la vita più in treno che in terraferma e ogni volta che ci salgo con un senso di avventura e di gratitudine, nonostante i servizi e ormai le sevizie cui veniamo sottoposti noi viaggiatori. Grazie Alessandro. Anche per me il macchinista è un eroe misterioso, invisibile, colui che ti porta, quello che fa andare il treno, l'ultimo luogo della libera immaginazione. E sono felice che tu ti sia manifestato, e lo è anche Gloria Guerrera, perché nel suo spirito sdegnosamente romantico non è certo indifferente alla strada ferrata. E mi piange il cuore che a dirigere le ferrovie non ci siano persone come te. Senti, scusa, passo al tu per complicità di avventura. Come te invece di quei foschi personaggi che stanno facendo del treno, mezzo popolare per eccellenza, soltanto una cosa da ricchi. E poi da ricchi che viaggino solo tra Milano, Roma, Torino e Napoli, perché se invece volessero andare da qualche altra parte diventa un viaggio in diligenza. Io con te, con Alessandro, capitano di treno, saluto il treno come l'ho conosciuto io, prima che ci togliessero tutto. Più di 20 anni fa ci hanno tolto i facchini. Motivazione era un costo per le ferrovie. Ma quello che costa a noi non conta. Di solito costa la salute a quelli che viaggiano in treno abitualmente. Abbiamo tutti la schiena spezzata. Da 3 anni non ci sono più neanche carrelli, nemmeno pagamento. No, dobbiamo andare carichi come somari, meritarcelo questo maltrattamento della ferrovia. Ci hanno cacciato di forza sull'alta velocità, i carri vecchi intercity ormai arrivano in ritardo di ore. Il biglietto dell'alta velocità poi ha dei costi immorali, però in compenso ci trattano male. Come ho detto altre volte, le ferrovie risparmiano anche sulle pulizie delle toilette. Di media, fateci caso, ne funziona una ogni 3 o 4 vagoni, cioè 3 o 4 su 12 vagoni. Dopo un'ora di viaggio sono impraticabili. È vero, qui ci si mette anche la maleducazione degli italiani, ma a maggior ragione bisognerebbe pulirli i cessi dei treni. E poi adesso questa trovata tremenda, tremenda, offensiva, la quarta classe. Un ritorno puro al Medioevo. Con un solo 6% di sconto ti blindano nella carrozza, non hai diritto di passeggiare sul treno, di andare al bar, che poi è noto che al bar ci vai mica per il caffè, ci vai per farti 2 passi in 4 ore di viaggio. Questa trovata è un'offesa per tutti, ricchi e poveri, ed è l'idea platonica del classismo e anche un po' del razzismo, perché guarda caso nelle pubblicità ci sono per lo più famigliole di extracomunitari, come a dire, messaggio sotteso ma in verità sparato in faccia: state tranquilli, questi non ve li troverete che attraversano la prima classe. Io lo trovo semplicemente inaccettabile. E con te, caro Alessandro, saluto anche le belle stazioncine di una volta, adesso tutte smantellate, spettrali, senza nessuno, sfregiate dalle bombolette, riempite da escrementi di cani randagi, polvere, polvere. Io mi chiedo quanta malafede o ignoranza del ramo di cui si è responsabili ci vogliano per insistere con la famosa TAV, per insistere con queste spese faraoniche, quando la rete ferroviaria è così ridotta. Oh, senza contare poi i lunghi tratti forzati in corriera. C'è un pezzo impraticabile della ferrovia? Mica l'accomodano, no, ti fanno accomodare a te in corriera. Ma come, io voglio viaggiare in treno e tu mi ributti per forza sulla strada? Poi, al primo imprevisto, poniamo l'ultima nevicata, la gente abbandonata nel treno gelato per 25 ore. Ma, cari signori delle ferrovie, ma cosa volete fare di noi? Carne in scatola che deve pagare a caro prezzo il diritto di essere maltrattata. Ora vogliono fare la TAV e stanno demonizzando la popolazione della Val di Susa perché protestano. Demonizzare e tacciarla di violenza, no, parliamo di violenza. Rubare e sventrare la loro terra quando l'80% dell'Italia, che è quella della provincia, è irraggiungibile in treno. L'evidenza della inutilità di questo sopruso e di questa impresa è straziante. Si minacciano i manifestanti, guai all'illegalità e alla violenza. Ma la violenza di entrare di forza in un territorio e l'illegalità di terreni confiscati con la forza, ma quella cos'è? La ferrovia chiede ai viaggiatori e non fa che togliere. Chi vuole fare per forza la TAV o non sa o non fa finta di non sapere, oppure non ha mai fatto un viaggio in treno, non è mai sceso dalla macchina con autista. Magari inviterei a farlo chi ha potere di decidere e di salirci una volta sui treni, di percorrere l'Italia da nord e a sud e anche in orizzontale se possibile, perché sono i viaggi più difficili. Ma insomma, se uno in casa ha il tetto sfondato, cosa fa? Rifà il pavimento preziosissimo? Ci piove in casa! Però per l'alta velocità ci sono i soldi. Hanno tagliato, che parola terribile, i treni della notte. Uno schiaffo a chi è più povero. Era la grande risorsa per andare da nord a sud e viceversa in una notte. In nome di che cosa? La tua lettera, Alessandro, è degna del treno come dovrebbe essere. Il treno che è uno dei luoghi più letterari del mondo. E che ci sia uno come te che guida il treno come leggendo Salgari o Verne. Io ti ringrazio. Ringrazio te e gli altri eroi del treno, che solo grazie a voi ha ancora una dignità. Anche perché è sul personale del treno che ricadono i disagi dei viaggiatori e sono sempre loro a cercare di rimediare e spessissimo aiutare chi viaggia, ancora una volta più intelligenti e onesti dei loro capi. E quindi, caro Alessandro, saluto te e con te saluto anche i Pelle Rossa della Val di Susa e spero che non cedano, anche se la testardaggine di chi ha interessi economici è, ahimè, pari al suo potere. E stavolta, se Davide la fionda, ho paura che Golia abbia il bazooka e temo che vinca. La guardiana del faro. Questa è la storia di Chiara, dal mio romanzo Donna di piacere, che si svolge in un bordello umbro alla fine dell'Ottocento. È un martedì grasso. Le ragazze aspettano i maschi per la grande festa di carnevale, ma nevica, nevica moltissimo e nessuno arriverà. L'io narrante è Chiara, la serva del bordello, che è stata anche una ragazza della casa e ha avuto una vita molto complessa, inseguendo un suo sogno di santità attraverso questa santa, Santa Mara, di cui ha visto l'affresco, e seguendo i suggerimenti della santa che le vengono in sogno, andrà in questa casa sulla collina senza sapere di cosa si tratta e si troverà improvvisamente al bordello. Il suo scopo nella vita è raggiungere anche lei la santità. E allora si adatta, quando arriva al bordello dice: ma forse attraverso il corpo il segreto di Santa Mara mi sarà rivelato. Tenterò la perfezione, strumento primo d'ogni volo. Poiché in sorte le è toccato il bordello, con tutta se stessa Chiara cercherà di fargli onore. Madame Goulon, cioè la tenutaria, Madame Goulon mi venerava. Il lato commerciale era eccellente. una signora. Prestigio, quindi danaro. Le ragazze sono un po' gelose, perché la Goulon mi ha assegnato la biancheria migliore. Sta preparando ogni cosa per vendermi come una donna di rango. Per me fece venire una grande novità, il paralume acquatico coi suoi lunghi petali e i suoi pistilli. E ha messo sul comò un malizioso daguerrotipo. E su, Nichilina, non morire d'invidia. Ognuna ha il suo scenario. Alla Nichilina giova lavarsi poco, che è selvaggia, e una goccia del suo sudore contadino viene pagata fino a un ducato. Per me ci vogliono invece i profumi e le acconciature perfette. Il cliente deve avere l'impressione di sorprendere una sposa nella sua camera da letto. Emozione rara, che a Parigi vale da 100 franchi in su, e qui ce la pagheranno salata. Sta tranquilla, Chiara, Chiaretta. Ma prendi lo zabaione, il fianco lo dobbiamo arrotondare. Quelli, la messa in scena va bene, ma se non c'è la sostanza... Aspettavo con ansia il mio primo cliente, perché lei è scappata di casa, ha lasciato il marito, perché la suocera stava cercando di avvelenarla. Ed è del tutto impreparata a questo mestiere, ha conosciuto soltanto suo marito. Aspettavo con ansia il mio primo cliente. La Goulon voleva sceglierlo con cura, e metteva in giro a bassa voce più di una storia piccante sul mio conto, perché i clienti si incuriosiscano lisciandosi i baffi. E infatti, nelle chiacchiere, il prezzo cresceva e io ero sempre più preoccupata. Avrei saputo far fronte alla cifra. Lessi da cima a fondo il libro di Madame Goulon, il libro delle istruzioni, no? E la notte ripassavo a memoria i passi più difficili. È un piccolo generale la Goulon nelle cose del letto. Se si ha valore si viene decorate. In quello non è avara. Il premio favorisce la corsa e le ragazze le piace vederle in lotta fra loro. La Goulon, ai suoi tempi, vinceva sempre le gare di catechismo e conosce quel caldo maligno del cuore quando vuoi vincere, superare tutti. Come lo studente sapiente ma timoroso, aspettavo la prova. Ero fortissima in teoria. «Eccolo! Chiara! Quello è per te, sono sicura!» Corse Lisetta tutta affannata. «Ci affacciamo alla balaustra. Di sotto...» C'era un signore coi guanti gialli e il cappello da uomo istruito. Chiese di me alla madama, snocciolando nome e cognome come se dovesse essere ricevuto nella buona società. Che bel signore. Uno difficile da ingannare. Che vuole in un bordello di campagna? Egli aspetta di certo un incontro sublime. Sogna forse la grande innocenza o il puro istinto e io sono solo una scolara zelante. Il debutto mi serra la gola. La Goulon inchina fino a terra la sua gobba, con la voce piena di danaro. Dalle sue frasi sfuggono monete. Si affacciò anche da Mina, e Bianca d'invidia disse: «Che onore, cara mia! Quello è un gran dottore di Perugia, il professor Ardenzia, medico dei pazzi». In quel momento l'uomo diceva alla Goulon: «La donna in questione è molto malata di nervi. Sono qui per visitare la paziente. Spero che mi seguirà senza fare resistenza». Lo aveva mandato la mia famiglia. Per evitare lo scandalo, ovvero per coprire il fatto che lei è scappata e se n'è andata al bordello. Suo compito era dichiararmi pazza in fretta e furia, prima che qualcuno mi toccasse. Passando dal bordello al manicomio, i due fatti si sarebbero confusi e il mio gesto sarebbe stato attribuito a follia. Scesi le scale con decisione. Dissi al medico: «Lei sbaglia. Non sono la sua paziente. Io sono una ragazza della casa». Andai verso di lui come se fosse stato veramente il cliente che aspettavo. Il primo uomo, dopo mio marito. La prova è più difficile del previsto e se sbagli, Chiara, fuori c'è il carro chiuso col segno del manicomio e due infermieri fumano grossi sigari calpestando l'insalata. Uomini muscolosi, coi gesti sicuri degli acchiappamatti. Non riuscirei a fuggire. Devo convincere il dottore che non fu un atto d'insania a spingermi fuori dalla mia casa, ma un impulso in accordo con le mie vere capacità. Lo portai in camera. Lui cominciò con le sue domande insidiose. Io non dissi parola, ma tutte adoperai le seduzioni libresche appena imparate a memoria. Era buia la camera, la mia ignoranza totale. Trepida, lottavo per la mia libertà. Il professor Ardenzia cercò di resistere, ma la mia lascivia, che sembrava lungo trattenuta, lo travolse. impersonai la sposa che ha rotto le catene per voglia d'amore, e tutto volevo provare, tutto insieme. La mia imperizia apparve evidente, ma così appassionata che fu lui a istruirmi nei piaceri più ingegnosi. Acceso da una febbre di curiosità, il professor Ardenzia era un perfetto libertino. Rimase con me 3 ore. Gli infermieri avevano fatto in tempo a devastare l'orto. Mentre gli riallacciavo il panciotto, il professore disse: «Chiara, tu non sei una pazza, tu sei una straordinaria puttana». Scuotendo la testa si lagnava che la nuova generazione non è onesta e un ferro di cavallo nessuno te lo salda più come una volta. Oggi non c'è più chi metta se stesso nel proprio mestiere, ma voi piccola, sì. Mi baciò in fronte e disse: «Sarete di certo più utile qui che a casa». In omaggio alla mia bravura insistei per pagare e, sapendo d'essere il primo, volle essere generoso. Il carro degli infermieri, il carro che cigola sulla mia vita da quando sono nata, se ne andò per sempre. Ora non verranno più a cercarmi. Avevo superato la prova. Ma nella lotta col professor Ardenzia, il mio sesso era rimasto indifferente. Lì per lì non mi preoccupai e mi dissi che era andata così perché non avevo inteso farne un amante, ma solo un testimone a favore. Ora appartenevo di diritto al bordello. Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, dreaming of a song melody, my memory, and I want to get with you when the love was new. I primi tempi, alcuni amici di casa vennero a trovarmi, come si usa, per gettarsi sulla preda. Ma io li trattai da sconosciuti e poco a poco smisero di provarci gusto. I lupi e il nevischio finirono di disperderli. L'inverno cancellava le tracce che portavano alla mia casa. Cominciavo a impadronirmi della nuova disciplina. Sapevo ormai come si guarda un uomo quando si vuole che lui ci voglia e come, dopo inaspettati piaceri, aprirgli il panciotto e tirar fuori il suo denaro, anche se non sapevo che farmene, e lo davo quasi tutto a Madame Goulon, perché mi allieta il suo sorriso di bambina predatrice. Intascare la rende umana. Andavo precisando il mio stile. Offrivo un piacere conturbante e costoso, che chi più paga più gode. Ricordatelo, avari, che per paura ad aprire il portafoglio chiudete fuori il piacere. Chi vuol gioire d'amore fino allo spavento deve essere disposto a buttar via non solo la scarzella, ma il cielo intero. Il desiderio d'amore è per i generosi. Io sentivo qualcosa solo quando lui gettava i soldi come un fastidio e su un cuscino di banconote celebravamo il disprezzo al mondo. Io e il cliente, chiunque fosse. Prediligevo i ragazzi e i vecchi dubitosi, che prima si vergognano, ma poi che fuoco! Queste sono le soddisfazioni di una donna di piacere, non i gettoni di Madame Goulon. Acconsentivo a tutto, perfino ai ragazzi con lo spadino, che vogliono farti sdraiare per terra e camminarti sulla schiena. Ma ero severa coi timidi, che fanno innamorare. Andavo bene, sì, andavo bene, ma non ero mai stata tanto lontana dal mio sesso. Quel giorno erano venuti dei contadini da Gubbio a festeggiare la vendemmia. Il tipo di cliente che ti piglia senza nemmeno dire buongiorno. Quando se ne furono andati, la casa era in condizioni disgustose, che la Goulon ai contadini rifila un cattivo vino e non sono belle sbornie. Ce ne stavamo ancora affannate sugli avanzi e la Goulon contava le sue appiccicose monete quando arrivò una visita inaspettata. La Nichilina andò ad aprire con un gran rutto. Sulla porta c'era mia suocera. La guardiana del faro. Stavo leggendo un brano di Donna di piacere, un mio vecchio romanzo che si svolge in un bordello umbro alla fine dell'Ottocento, e l'io narrante è Chiara, questa ragazza che adesso è serva del bordello, ma è stata una signora sposata e ha appena ricevuto la visita della odiatissima e odiantissima suocera proprio nella casa di piacere. Mm. Io ero mezza nuda, con la gonna squarciata da una bottiglia di vino. Lei non entrò. Dalla porta, reggendosi su due bastoni, mangiava con gli occhi la sporcizia e i resti dell'orgia. Il suo odore di limoni rancidi dice che è prossima alla morte. Sentendola vicina, non aveva resistito all'estrema soddisfazione. Venire al bordello e vedere la sua nemica umiliata. Voleva portarsi all'inferno che l'ultima vittoria, e le labbra frinivano di gioiosa agonia, contratte come se per la prima volta nella vita provasse il piacere d'amore. Disse: Ottiero, cioè il marito, sposerà la figlia della Rosa. Tu non sei più sua moglie. Sentì una forte sofferenza, perché il passato profanava il presente e tutto al bordello rifulgeva di una luce pura davanti a quel vecchio ratto votato alla perfidia. Allora presi una natura sguaiata e mi accesi un mozzicone, cercando di essere più penosa che potevo, perché il suo rancore trionfasse e se ne andasse subito, e feci una brutta voce. «Chi sei? Che vuoi?» Lei stava ferma sulla porta. Chiese: «Hai rimpianti?» Abbassai lo sguardo, come se ne avessi, mentendo perché lei sia contenta e tutto sia consumato in fretta. L'illusione del mio fallimento gli diede un po' di colorito alle gote. Era meno brutta ora e stava per girarmi le spalle. Come dolce ora per il suo cuore moribondo l'aver veduta la rivale al porcile. Quando ecco la Nichilina, che questionava con rannusia per un pettinino, inferocita le tirò le sue mutande di pizzo intrise di vino, ma sbagliò mira. Prese in pieno mia suocera e lei rimase con le mutande davanti alla faccia. Mi accorsi che le tratteneva con la mano e non riusciva a staccarsene, come una faina aspirandone l'odore. I sentori campestri della Nichilina, i suoi spensierati sudori colpirono la vecchia come una bastonata sul naso. In quella la Goulon mise su il fonografo perché due signori insieme la mettevano in imbarazzo. La canzone giunse fino alla vecchia sulla porta come un fiume rapinoso. Per la prima volta ebbe gli occhi pieni di lacrime. Ella sentì che al casino qualcosa viveva, più dell'invidia e dell'oro. Se ne andò ingobbita, antichissima bimba delusa, trascinandosi dietro le catene della sua eterna cattiveria, che la facevano vacillare. Morì per la strada, in carrozza, vinta dalla malinconia, prima d'arrivare a casa. Ne fui contenta. Non avrei mai voluto che Ottiero entrasse al bordello con gli occhi di sua madre. Ma per la sua domanda io non dormivo più. Me la ripetevo di notte. Hai rimpianti? No, ma godimenti? Nemmeno. Ormai avevo dimestichezza col sesso. Pure esso mi restava del tutto sconosciuto. Nessuna rivelazione lo aveva accompagnato. Mi specchio sempre dopo l'amore e non ho mai nel volto qualcosa che somigli alla beatitudine di Santa Mara, che è la cosa che lei inseguirà per tutta la vita. Che sia anche la disciplina del casino inutile, come un vasto ripetuto matrimonio. Dopo 3 anni che mi trovavo lì, senza essermi risparmiata le più sconvolgenti esperienze, la mia impressione era una: d'avere un solo marito con 100 sessi. Che non sia questa la via, la mia via? Ero triste nel dubbio. Desideravo che venisse un angelo e mi indicasse la via. Ma gli angeli non sempre arrivano dal cielo con le ali. Messaggeri possono essere tutte le creature. Abbrutita nell'abitudine, tiravo le somme. Così come Matterelli, sì, a Iosa, come Mazze, come Batocchi. Non è quello che conta. Essi rimasero sempre strani, pur penetrando le fessure di me, che nemmeno sapevo d'avere, e scoprendone un'infinità, e tutte inutili. Non è attraverso il corpo che saprò il segreto di Santa Mara, ma allora dovrò tornare indietro? E dove? Avrei voluto mutare condizione, ma non sapevo come. La mia confusione era il colmo. Ormai trattavo i sessi macchinalmente, quali argani o maniglie. Arrivarono anche delle lagnanze. Che vergogna, stavo diventando una cattiva puttana. Thank you. mio libro su Majakovskij, parlando delle principesse Romanov, avevo scritto: peccato, peccato per quelle quattro bellezze. Chi non ha pensato almeno una volta di fidanzarsi con loro, anche quando erano morte da tempo? Queste principesse adolescenti che furono ammazzate in una cantina nel 1918, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, piante rigogliose capitate lì per caso, intoccabili e senza difesa. E mi chiedevo: com'è possibile che nel folle romanticismo della rivoluzione nessuno le abbia salvate, nessuno abbia dato la vita per loro? Intervenne nel 1995 un tardivo cavaliere col romanzo Cercando l'imperatore. Quel tardivo cavaliere è Roberto Pazzi, questo visitatore e trasformatore di mondi, perché dopo aver visto le foto di quelle suavissime fanciulle avevo fantasticato sulla strage dei Romanov. Perché sì, va bene, è vero che la rivoluzione non è un pranzo di gala, ma non sempre è truce e macelleria, come in questo caso. E allora cerchi di trovar loro una via di scampo, ti attacchi al fatto di Anastasia, che ricomparve, e forse era una falsaria e forse no. C'è una foto straziante dello zar e della sua famiglia sul tetto della casa Ipatiev, a Yekaterinburg, poco prima del massacro. È la loro ora d'aria. E li vedi là, timidi, ancora vivi, ancora incerti se li faranno morire o no, vestiti modestamente e nelle facce questa speranza timorosa che forse sì, forse sarà loro permesso di salvarsi, o almeno al figlio, o almeno alle ragazze. Perché è vero che queste creature sono della stirpe dei tiranni, dei malfattori, dei vampiri, degli ingiusti, ma loro sono solo delle ragazzine che parlano in francese, delle ragazzine vissute prigioniere prima che dei rivoluzionari dell'etichetta, delle guardie, delle dame di palazzo. Ragazze che non sono mai uscite da sole. E poi lessi il romanzo di Pazzi, Cercando l'imperatore, e finalmente trovai la soluzione. Lui le salva. Non le fa né vivere né morire. Fa come Ovidio, opera una metamorfosi. Ma non voglio dire come fa. Invenzione a parte, è tutto nel modo. Ti ci fa credere. Insomma, se siete curiosi, prendete il libro di Pazzi. Queste cose non si possono raccontare, vanno lette. Ho qui un altro romanzo di Roberto Pazzi, anche questo solenne, un romanzo solenne nella sua follia fastosa, si intitola Conclave, è uscito per la prima volta da Frassinelli nel 2001 e adesso con la nuovissima casa editrice 150 Barbera, fondata da Simone Marchi e Davide Bregola, due giovanotti mantovani innamorati della letteratura. Dalla copertina ci salta quasi addosso l'amorino sfrontato e innocente di Caravaggio, nel quadro intitolato Amor vincit omnia. Ed è la storia di un conclave, di una lezione papale che sembra impossibile, e racconta i tormenti del cardinale Malvezzi e dei delitti e dei prodigi che si svolgeranno durante questo conclave dentro le mura vaticane. Il bellissimo film di Moretti sul Papa ha riportato interesse su questo affascinante testo, su questo poema ecclesiastico, in un inferno dai gironi sempre in bilico tra l'orrore e il miracolo, e poi, con tutta la sua ironia, è percorso da un vento di apocalisse. Durante il conclave, a un certo punto, filtrano delle strane indiscrezioni. Qualche cardinale è morto in modo misterioso, qualcun altro ha tentato la fuga. Il filo conduttore dell'intera vicenda è la coscienza del protagonista che ho già citato, il cardinale Malvezzi, il meno favorito dai pronostici. Roberto Pazzi fa di questo libro l'occasione per una indiscreta radiografia della nostra società. Questo Malvezzi, questo arcivescovo di Torino, è un uomo attento e al primo conclave, e in Vaticano si respira quest'aria mistica, magica, misteriosa e anche piena di affari. Lui è un credente, non è un intrigante, e assiste con molto fastidio a tutte queste manovre di palazzo. Non gradisce le manovre di questi arcivescovi che tramano per fare un papa italiano. E Roberto Pazzi, che è molto abile a giocare col surreale, a un certo punto fa riempire il Vaticano di animali, segni, presagi. È come se su questo conclave e sul Vaticano, dunque, si abbattessero i flagelli della Bibbia. Prima uno, poi due, poi tre. Ecco i topi, una sterminata invasione di topi che si mangiano i dipinti dei musei vaticani, le scorte della cucina, i vestiti degli arcivescovi, e diventa un poema burlesco perché reagiscono in maniera medievale a queste piaghe. E quindi come si vinceranno i topi? Coi gatti, vum, 3.700 gatti irrompono in Vaticano. Ma anche i gatti si riproducono a una velocità insostenibile e allora devono eliminare i gatti. Non hanno fatto in tempo a eliminare i gatti che arrivano gli scorpioni. Arriva una legione di scorpioni. E quindi continuano a ricorrere alla catena alimentare. Arrivano le galline, una miriade di galline bianche invade lo stato pontificio. E poi neanche le galline risolvono nulla, perché la libidine che soddorme in tutti questi prelati viene scatenata dalle galline. Ricorda molto sicuramente il giocoso pazzi ci avrà pensato, La febbre dell'oro di Charlot, dove questi due cercatori d'oro affamati in questa baita isolata, a un certo punto il compagno di Charlot comincia a vederlo come una gallina e se lo vuole mangiare. E così i cardinali pensano che queste galline sono delle fanciulle, e quindi viene scatenata anche la lussuria. Dopo le altre piaghe bibliche, ecco la lussuria. E intanto poi è successo un fatto grave all'esterno. Intanto il mondo comincia ad abituarsi all'assenza del Papa, e tutto sommato viene fuori che se ne può anche fare a meno. E poi viene proposta la candidatura di un Papa africano. Ed ecco i cardinali africani, che hanno una visione animistica del cristianesimo, che sono anche dei grandi maghi, e quindi anche dei prodigi accadranno, degli atti di magia. Per esempio l'affresco di Michelangelo, Il giudizio universale, va svanendo, evaporando, e soltanto il volto di Gesù si potrà vedere ancora. Non posso dirvi il finale, ma molto di più. La guardiana del faro. Capitaneria di Porto, lo scrittore Roberto Pazzi è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao, ciao Barbara. Noi ci siamo conosciuti fuggevolmente una ventina d'anni fa e ti dirò che nelle foto di adesso fatico a riconoscerti, perché allora non eri mica così bello. Ti è venuta una faccia da Sean Connery delle lettere. Io invidio la barba che vi fa più giovani, più giocosi, più morbidi, più da abbracciare. No, perché a noi ci casca il collo e dispiace. Mi ricordo che la chiamavano l'onor del mento. L'onor del mento, infatti. La barba. Senti, Roberto, tu sei un poeta e un narratore, un po' laureato e un po' scomunicato. Cioè, nei partiti della letteratura italiana tu fai parte per te stesso. Però la cosa non ti è molto d'impaccio, perché hai tradotto i tuoi libri in 26 lingue, hai vinto una quantità di premi importanti, sei stato finalista allo Strega due volte, cioè, quindi isolato ma riconosciuto. Chi lo sa se è così? Lo sapremo dopo che non ci saremo più. E Conclave è stato tradotto in 18 lingue. Sì, è la cosa più stupefacente, persino in coreano. Pensa, quando mi sono visto i caratteri incomprensibili, poteva esserci scritto qualsiasi cosa, però di una nazione così lontana, forse è stata una delle emozioni più alte che mi ha regalato questo libro. E in Polonia, dove ha suscitato un sacco di polemiche, perché ovviamente sappiamo bene come... Beh, papisti come sono. Esatto, e hanno addirittura sospettato che il cardinale che si vedeva nella copertina bellissima dell'editore VAP fosse Ratzinger, visto di spalle, invece era solo una somiglianza. In realtà l'allora presidente della dottrina della fede, che era appunto il cardinale Ratzinger, è un personaggio del mio romanzo, anche se si chiama Olindo Mascheroni nel mio romanzo, ed è un cardinale che ha una certa straordinaria fine, perché lo trovano truccato con la parrucca di Santa Zita in testa, commosso dalla possibilità di incontrare a breve una delle guardie svizzere che ha conosciuto nel bagno turco, che è stato fatto allestito dentro il conclave, perché in realtà le vere comunicazioni dei cardinali nel mio conclave avvengono in questo bagno turco, in questa sauna che vengono costruite, perché insomma non ne possono più i cardinali, dopo mesi e mesi e mesi di conclave vogliono rilassarsi, e là avvengono incontri che sconvolgono insomma certe vedute. Il mio è un romanzo di un uomo che crede nel Cristo ma non crede nel Papa, insomma. Ma Tolstoi diceva credente e anticlericale è sinonimo. Tolstoi, che era uno di quelli che con la Chiesa, beh, tutti i russi, anche Dostoevskij, la leggenda... Beh, no, lui proprio è stato segnatamente scomunicato e soprattutto ha dimostrato che la sua autorità morale era superiore di quella della Chiesa, perché dopo la scomunica lui è stato acclamato come santo popolare. Certo, ma d'altra parte San Francesco ha iniziato come quasi fosse un eretico, quasi cacciato via dal Vaticano. Poi dopo... No, lui per un pelo che non l'hanno, esatto, che non l'hanno messo a rogo. E dopo è stata la fortuna della Chiesa che ci fosse San Francesco, che la faceva rinascere, insomma. spesso. Ma Cristo stesso, quando non è andato contro la legge mosaica, contro il Vecchio Testamento, i farisei, eccetera, no? Il sacro ha dei balzi, dei salti ogni tanto, che vengono presi per demoniaci, per maghi, streghe, poi si allarga il sacro, si accomoda su nuove piazze. E io poi sono anche stufo che di Dio ne possano parlare soltanto i preti, non i poeti. Rivendico ai poeti il diritto di parlare di quello di cui parlano i preti. I migliori voli sul sacro sono dove stanno più lontani da dove è la sede istituzionale. Facciamo subito l'esempio. La Spagna, il misticismo della Spagna, e la Russia, il misticismo slavo, sono i più lontani estremi da Roma. Come mai in Italia, dove abbiamo la sedia con la S grande, come diceva Machiavelli, è così avara l'ispirazione religiosa? Ma chi scrive sul Vaticano? Chi scrive poemi o romanzi? È come scrivere sulla Deutsche Bank, voglio dire. Esattamente. Vabbè, ci sono i Promessi Sposi, vero? Ma i Promessi Sposi sono un'opera anche eretica per i tempi, perché tu pensa a Don Gertrude, vero? La monaca di Monza e Don Abbondio non sono proprio due preti esemplari. Era rosminiano Alessandro Manzoni, era quindi antigesuitico e antitemporalista, era contro il potere temporale dei papi, votò Roma capitale contro Pio IX. È un controsenso, il potere temporale è un controsenso rispetto al Vangelo. Poi ci sono i preti poeti, ovvero i preti evangelici, non so, esatto. Così a caso, Don Milani, Don Gallo, ecco. Brava, io ritengo infatti che il sacro esiste anche dentro le vene della Chiesa, ma sai dove? Dove hai detto tu? Nei contemplativi, nei monaci, nei quelli dei conventi, quelli lontano dalle In quelli che si ricordano che la Chiesa parte dal Vangelo. E a quelli io credo, a quelli io mi sento vicino, insomma. Dove invece è la sede della la parola, dobbiamo dirla, potere. Il potere e il male equivalgono, sono un'equivazione necessaria, Machiavelli ce lo insegna. Cioè, fare vuol dire inevitabilmente fare anche il male, non solo il male, ma anche il male. Questa è una cosa che ci ha insegnato tra l'altro Manzoni nella Belt, insomma. Una feroce forza possiede il mondo e fa normarsi dritto. Al mondo non resta che far torto o patirlo. Godi che re non sei. Che vuol dire godi che sei uscito fuori dalla maledizione del potere, perché essere re, cioè essere potenti e fare il male, è un'equazione necessaria. Quando il Cristo diventa potente temporale, entra nel male necessitato. La storia della Chiesa è piena di questa cosa qua, di questa puzza del male. Bisogna andare nel nord Europa perché il senso religioso sia più legato all'onestà, con i protestanti. Ecco, dove il rapporto è personalmente con Dio. Esattamente, dove c'è il principio del sacerdozio universale, cioè ognuno è sacerdote di se stesso nel rapporto personale con Dio, senza la mediazione di qualcuno. La lettura dei testi fatta direttamente, tutti noi quando viaggiamo nel nord Europa ci colpisce quella Bibbia che c'è in ogni albergo, in un cassetto, no? Tutti ce la possono leggere, interpretare, devono leggere, interpretare. Infatti, Roberto, Dio non si può amministrare. Quando si dice ministro di Dio è già un titolo molto sospetto. È vero. Ma ci racconti il tuo viaggio letterario in Transiberiana? Io sono fatto Nizhny Novgorod e poi abbiamo fatto Kazan, la capitale dei Tartari, dove già ci sono moschee, mezzalune, cioè tutta l'ombra dell'Orda d'Oro. Tu sai che nell'antico Medioevo lì c'erano i Tartari che avevano piegato la Russia. Poi siamo arrivati agli Urali, mitica divisione fra Europa ed Asia, mitica reale divisione, i famosi Monti Rifei di cui parla l'Orlando Furioso, Lodovico Ariosto, dove nasceva, molto al di là degli agghiacciati mari, dove nascevano gli ippogrifi. Pensa nell'immagine, io sono di Ferrara. E stando da casa mia li vedevo prima nell'immaginazione, poi me ne sono andati a vedere i luoghi degli ippogrifi quando il treno si è fermato a Yekaterinburg. Non ti dico l'emozione, con tutte le danzatrici che mi arrivavano intorno a festeggiare come festeggiavano tutti noi. Sai, l'accoglienza dei russi è un'accoglienza che non c'è più nel nostro occidente, è ancora legata a un tipo di rapporto con le persone che è incerto fra il magico, il fantastico e l'erotico. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.